Comincia, sarebbe meglio dire, è cominciata la nuova stagione del Mercato Sonato. Ne parliamo al telefono con Tommaso Ussardi, direttore dell'Orchestra Senza Spine, direttore artistico del Mercato Sonato, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, che stagione è? È una stagione che ne ha di tutti i colori e di tutte le temperature anche, direi, come già questo inizio di ottobre ci ha svelato. Faceva un freddo, adesso è uscito il caldo. È un po' così la nostra stagione. Un giorno incontri musica contemporanea, il lunedì di istantanea, ad esempio tutti i lunedì, il giorno dopo scadi nel trash del karaoke e del coro degli stonati, che sono ovviamente un piacere per le orecchie, forse più per gli occhi, e poi il mercoledì c'è musica classica, quindi tutti i mercoledì classica da mercato, il giovedì il tango con la milonga che va avanti fino al cuore della notte, e poi venerdì, sabato e domenica concerti veramente per tutti i gusti. È una sorta di ecosistema che avete creato, no? Perché si mette in relazione anche i corsi che realizzate e appunto la musica di diverso tipo a 360 gradi fino a creare un ambiente variegato. Ma sì, sai, noi siamo partiti da questa esclusione di fondo della musica classica, no? Eravamo tipo gli associali del gruppo e avendo portato avanti il progetto e avendo creato il Mercato Sonato è diventato molto facile per noi cercare semplicemente la qualità, ma anche solo della relazione sociale, cioè anche il karaoke, per quanto sia una cosa un po', no, distante da quello che è il mondo del teatro, eccetera. In realtà è un momento di socialità divertente, bellissimo, in cui insomma è bello esserci. Allora la settimana del Mercato Sonato è questa, si passa veramente dagli alti al basso, ma l'importante è che ci sia socialità, divertimento e cultura a 360 gradi, senza distinzione di generi e di gusti. L'importante è esserci e divertirsi. Veniamo un attimo ai primi concerti che ci saranno nei weekend. Puoi farci qualche nome? Assolutamente. Beh, abbiamo questo venerdì, iniziamo con gli Swing Growers, quindi electro swing all'ennesima potenza. E poi il sabato invece disco funk selecta con Archivio 180, e poi il 9 domenica facciamo Mercato Saloon, che è quella rassegna che ci ha, diciamo, accompagnati durante il lockdown, dove il mercato diventa una sorta di ludoteca dove si gioca a ping pong, a scacchi, a biliardino e soprattutto a biliardotto, che è questo biliardino però da 4 contro 4, che è un treno di giocatori rossi e blu. E poi la settimana dopo, invece venerdì dopo, con The Magnetics e alla giamaicana DJ Set, quindi andiamo sullo ska, roots, rocksteady. E il 15 invece sabato con Electric Circus, dove abbiamo i ragazzi del Vibrella Sound che hanno abbiamo fatto questo format Circus meets the dance floor, quindi circo e dance floor insieme per un sabato sera scoppiettante. E poi l'ultimo che ci tengo a citare è il weekend 22-23, dove abbiamo un festival bellissimo in collaborazione con Tarantarte, dedicato appunto alla Taranta e al Salento, si chiama Danzare la Terra, e abbiamo il sabato Antonio Castrignano e Piccioni e Lo Cisano, poi il 23 Laboratori con Maristella Martella, che fa il laboratorio di danza teatro, Piccioni, che fa il laboratorio di tamburi a cornice, e Lo Cisano di chitarra battente, e poi la domenica 23 appunto la sera una grande jam session di Taranta per concludere la settimana. Torna anche una collaborazione con Arci, continuate ad ospitare il Sooner Festival. Assolutamente, abbiamo il Sooner il 21 con Baronciani, Nuccini, Giungla e Bastreghi, si presenta Ragazzacidi, che è appunto questo nuovo soundtrack firmato Saner, sarà sicuramente di grandissima qualità. Diamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori dei riferimenti per scoprire tutto il programma. Allora, sicuramente pagine social, Facebook, Instagram, e forse anche Telegram, che sono ovviamente Mercato Sonato, il sito mercatosonato.com, e le attività invece di Senza Spine, senzaspine.com, e pagine social omonime, e lì si trova tutto. E poi c'è una mailing list, se uno volesse proprio essere tartassato di informazioni basta scriverci e noi le mandiamo con molto piacere. Comunque tutti i giorni il Mercato Sonato è aperto, è un circolo Arci, basta avere la tessera Arci e si entra e si gioca, quindi in qualsiasi momento venite a trovarci. e facciamo festa. Io Tommaso ti ringrazio, buon lavoro e buon divertimento. Grazie a voi dello spazio e a presto.